GR Sport. Buongiorno da Carlo Genta. Dunque, i tifosi di Inter e Roma non potranno seguire le rispettive squadre nelle sfide scudetto di Parma e Catania. Così hanno deciso i prefetti. Nonostante il divieto, i tifosi dell'Inter confermano che domenica saranno a Parma, ma garantiscono una invasione pacifica della città. Secondo le stime potrebbero essere 3.000 gli interisti. C'è però un altro timore, che per il prefetto emiliano Paolo Scarpis è quello che ha motivato il provvedimento. Sentiamo Scarpis. Le segnalazioni della Questura di Roma, che paventano l'arrivo di tifosi romanisti in questa zona, aggravano il pericolo di situazioni di tensione. Ma sentiamo anche le motivazioni al divieto per i tifosi romanisti dato dal prefetto di Catania, Giovanni Finazzo. I precedenti, questi propositi di vendetta, di reazione della tifoseria catanese che aveva subito violenze e accoltellamenti a Roma, non poteva che far adottare il provvedimento di questa mattina. E a Roma non ci saranno nemmeno maxi schermi, negata l'autorizzazione da parte del prefetto della capitale Carlo Mosca. Saranno almeno 6.000 gli agenti tra polizia ed esercito che pattuglieranno la zona intorno allo stadio Luzhniki di Mosca mercoledì prossimo, giorno della finale di Champions League tra Manchester United e Chelsea. L'imponente servizio di sicurezza è stato studiato e approvato dal Ministero dell'Interno russo per prevenire eventuali scontri tra opposte tifoserie. Sono infatti decine di migliaia gli inglesi attesi a Mosca per questo evento. Adesso possiamo cambiare pagina e andare al Giro d'Italia, che a Peschi ci ha trovato una nuova maglia rosa nel giovane e talentuosissimo Visconti. Il servizio. Da ieri si è cominciato a fare sul serio. A Peschici vittoria di tappa per Matteo Primo, maglia rosa invece che passa dalle spalle di Franco Pellizzotto a quelle del tricolore Giovanni Visconti. Una vera rivoluzione in classifica generale. Oggi la rivoluzione potrebbe proseguire, visto e considerato che la Vasco Pesco Costanzo di 180 km è il primo traguardo montano di questo giro. Pellizzotti ha difeso per 4 giorni la maglia di leader con un solo secondo di vantaggio. Visconti dovrà respingere gli attacchi del tedesco Rus, che è secondo solo per un mero gioco di piazzamenti. Al giro tutto è in movimento. Dopo i lamenti per le cadute e trasferimenti eccessivi, ora si cominciano a scaldare i motori. C'è voglia di dare battaglia. I giovani hanno già fatto saltare il banco ieri. Gli uomini di classifica che ambiscono al successo finale sono chiamati oggi a rimediare allo svarione di ieri. Di Luca e compagni sono attesi ad un importante esame di riparazione. Per questo stage GR24 sono 24 ore, vasto. 3 minuti e 38 secondi alla fine di Avellino Capodorlando, con gli Irpini in controllo di gara e qualificazione alle semifinali scudetto del basket. Il pubblico avellinese saluta così, con oltre 5 minuti di applausi ininterrotti a partita ferma, l'uscita dal campo dell'avversario Gianmarco Pozzecco, che lascia il basket. Parole e lacrime del Pozzo. Salutare prima Enzo Sindoni e poi veramente salutare tutte le persone che in questi 30 anni mi hanno sopportato, hanno cercato di capirmi. Io penso che nessuno ce l'abbia fatta. Niente, chiedo scusa di tutto quello che ho fatto di sbagliato. Sappiate solo che se l'ho fatto perché avevo un amore spasmodico nei confronti di questo sport. E nell'altra gara 3 dei quarti Roma ha battuto Cantù 86-67 e si è portata sul 2-1 nella serie che, lo ricordiamo, si gioca al meglio delle 5 partite. Ma per continuare a parlare di basket, l'appuntamento è oggi pomeriggio alle 14 con Palla Spicchi. Di nuovo buona giornata.